a la máquina. Lucha, lucha, lucha en su suelo. No se quema. Lucha a la máquina. Lucha, lucha en su suelo. Colurecque, me piate, me flipaba colurecque. Me piate, me trasugo colurecque. Sto la sempre stava colurecque. Rende lo mondo disgraziato. Canto, musica reggae, suono. Musica reggae, vivo. Musica reggae, la sole unica che ti illumina. Cinalemo, ubaloco sulla verso. Fra le emozioni i suoni in cui da sono sempre immerso. Cantando già da sempre su una base la speranza. Ritmo sempre quello purché nasca anche una danza. Ritmo elevare, buona vibrazione. Musica reggae, reggae, molta situazione. Originale sai il suono che facciamo. Che nasce giù Giamaica, qui da tanti anni sono. Nasce come espressione di una religione. Esprime gli ideali di una gente attraverso una canzone. Il reggae si è evoluto nel suono che mo vedi. Ma nasce come mento dopo Skype e Rocksteady. We talk about this music to get the revolution. People understand that love is the solution. Di Braga with the pop are mixing in a fusion. The skip of thinking man the original confusion. Bella the bunny non è DJ pop the bass. Don't give up the fight, keep a light touch a place. Tutta la mattina, lucha, lucha, lucha in un suelo. Tutta la mattina, lucha, lucha in un suelo. Sento i belli luca, non si tratta mai. Impugnare in trasta dentro style. Guai, quell'azzari. Si addici per l'uni e la fiti viari. In abilità, modo ufficiale. Tali problemi te fai scirrare. Mena la merda e vieni a ballare. L'unico sforzo è di urlare. Osa la mano come a me. Senti stupido e ti senti un re. Cuffia le orecchie, microfono a mano. E sempre più forti noi impugnavo. Dall'orecchie e cosa buona e giusta. Tu lo senti e chiudi gusta. Sopra di base diciamo paroli. Cavoli, sleghi, cementi, ori. Illuminati, diffusori, splendenti. Per rifocare di rumare e clienti. Sando l'orecchie come un pane quotidiano. Te lo ripeto, cosa da mano. Lo ribellino ancora sta canta. Sempre più frisciato, tra sta danza. Fate dai, forza e sostanza. Insieme a Uva, l'ultimo che in casa. Tutta la mattina, lucia, lucia, lucia in un suelo. Tutta la mattina, lucia, lucia in un suelo. Canto, musica reggae, suono. Musica reggae, vivo. Musica reggae, la sole unica che ti illumina. Originale ma sbagliato passa a parte. Azzica il poeta dalla capa di centrale. Continuo, yeah, un tempo più pesato, mi c'è l'orecchio. Me è contagiato, lo fu fare la canzone, cammenti la base. Con lui ribelli nutra, siamo in fase. Da suono delle casse che si imposta prepotente. Conosci il messaggio, dici, non togli niente. Do rivoluzione per rivoluzionare. Corra con emozione, per emozionare. Lo senti, non ne puoi fare a meno. Lo senti, elevi il tuo pensiero. Lo senti, ti prende per davvero. Lo senti, fino a dammelo.